Che cosa cazzo succederà? No, registrare, registra però. Sono alla ricerca di un collegamento tra i sogni di diverse culture sull'estensione dell'umano a domini che non siano dell'umano e la definizione dell'umano. C'è una contraddizione in questo? Penso di sì. Da un lato Homo sapiens si autopercepisce la priorità al salvataggio delle vite, l'hanno salvato le vite, le salveranno. Allora, da un lato Homo sapiens si autopercepisce come un essere totalmente altro dal regno animale. Si percepisce come qualcuno che non ha, cioè come un essere in cui le differenze col regno animale prevalgono sulle somiglianze. Detto in altri termini, si percepisce come una discontinuità nel regno animale, ok? Se no non si auto definirebbe come essere intelligente, essere linguistico, essere politico, eccetera, eccetera, eccetera. Dall'altro però sembra che abbia una fregola incontenibile di trasformare il non umano in umano. Perché se no non favoleggerebbe di cose inanimate che diventano animate. Di oggetti che non hanno la vita e che si comportano come se avessero la vita. Questa mi pare una contraddizione. Questa contraddizione, io dico adesso, quello che vi dico adesso è insufficiente per stabilire un legame tra la questione dell'uomo artificiale e quella del linguaggio, però forse è un primo passo. L'immaginazione di un essere artificiale è strettamente collegata con la questione del linguaggio. Perché? Perché il linguaggio non è uno strumento, il linguaggio è una pratica, è un comportamento, è un'abitudine, però è qualche cosa che crea una rappresentazione. Duplica il mondo, il linguaggio duplica il mondo, l'effetto principale del linguaggio negli esseri umani è di creare un doppio del mondo, un doppio che non è trasparente, che crea molti problemi, però è un doppio. C'è qualcosa che sta al di fuori di noi, che noi non possiamo controllare, ma con il linguaggio creiamo qualcosa che è controllato da noi e che in qualche maniera è in relazione, noi addirittura pensiamo che descriva o che sia, no? E beh, non è la stessa cosa che prendere la materia inanimata e farla diventare animata, è simile. Nessun animale avrebbe anche se avesse, lasciamo perdere che nessun altro animale ha i mezzi, gli strumenti per fare una roba del genere. Certo, noi abbiamo la tecnica, quindi possiamo farlo con la tecnica, ma al di là del fatto che abbiamo la tecnica, però, è concettualmente che noi possiamo concepire e pensare, e non ci sembra totalmente assurdo, di fare due operazioni diverse, da un lato, due operazioni simili, da un lato trasformare una materia inanimata in una materia animata, Il golem che l'altra, che alla scorsa lezione Fabio ha, il problema del golem che ha sollevato Fabio, da questo punto di vista è esemplare, cioè perché è nient'altro che la replica della narrazione biblica della creazione dell'uomo. Prendi un po' di fango, gli soffi dentro il respiro vitale, lo pneuma degli stoici greci, e questo fango diventa vivo, si alza, si muove, diventa una persona vivente, un essere vivente. Oppure dall'altro, quindi da un lato prendere la materia inanimata e fare diventare l'uomo, e fare diventare umano ciò che non lo è, umano anche soltanto vivente ciò che non lo è. Il golem è ben inutile all'essere umano, cazzo, è un bestione che ha poco di umano, insomma. Però si innamora della figlia del rabbino, tutto il casino del golem poi sta lì, perché ovviamente, vabbè, l'immaginario maschile è sempre questo, però rispetto al linguaggio il mondo si innamora delle femmine. Rispetto al linguaggio? Il mondo ha già una vita di per sé. Certo, il mondo è autonomo, il mondo in qualche maniera esiste, anzi, e non è neanche tanto vero questo, perché in realtà il mondo senza linguaggio non esiste. Noi, come dire, tendiamo a dare al mondo un'esistenza autonoma mentre non ce l'ha. La realtà è un conto, la natura è un altro conto, ma il mondo è la natura umanizzata. Il mondo sono le città, sono i villaggi, sono le case che noi costruiamo, sono i campi arati, sono i canali di irrigazione, sono tutte le azioni che l'uomo fa sulla natura, cambiando la natura. Questo è il mondo. È chiaro che il mondo è un'operazione linguistica e tecnica insieme. Però noi ce ne dimentichiamo e teniamo. Sì, certo che il mondo, figuriamoci. Se l'osservatore di Fabio voleva escludere le ipotesi idealistiche, mi trovo d'accordo, certo, mica dico che la realtà è una creazione nostra, il mondo è una creazione nostra, ma non la realtà. Però certamente il mondo, in quanto è una mescolanza di, diciamo, natura, cioè realtà obiettiva, e azione soggettiva sulla realtà, continua a mantenere una indipendenza da noi. Non totale però, perché in realtà il mondo è essenzialmente una creazione nostra, insomma. Allora, se andiamo a vedere nel mito greco, vediamo che ci sono due, nel mito greco già compaiono, due figure di esseri artificiali. No, ne compaiono tante, ma adesso ve ne ricordo due, così tanto per... Prendiamo il mito greco perché è quello che da cui noi veniamo, insomma, poi in realtà in tanti altri miti ci sono cose di questo tipo, perlomeno nei miti indo-europei. In un passo, dunque, voi sapete che gli dei greci stanno sul Monte Olimpo, che è un monte che a noi ci fa ridere, perché insomma sarà 1500 metri, meno di metà del Monte Bianco, o poco più. Però vabbè, insomma, per loro era molto alto, c'era sempre di nuvole, quindi là sopra ci stanno gli dèi. Gli dèi fanno i banchetti, nei banchetti degli dèi ci sono i due coppieri istituzionali, che sono, una è una ninfa che si chiama Ebe, e l'altro è un maschietto di quelli che piacevano a Zeus, che sapete che l'omosessualità in un certo periodo della vita faceva parte delle confezioni culturali dei greci, quindi era normalissimo che gli uomini adulti andassero con i ragazzini, e questo era parte della educazione di questi ragazzini. Siccome non c'era la scuola, vi è andata bene, penso ai maschi eterosessuali di qua, non c'era la scuola, quindi praticamente il sistema di istruzione consisteva nel fatto che uno andava, insomma, ascoltava quello che dicevano delle persone più grandi di lui, chiacchierando per i posti, poi ogni tanto si facevano fare delle piccole pratiche sessuali, che però tutti accettavano, insomma, no, adesso la vita era noi perché siamo così, però era così utile che vediamo tutto, perché dico sta roba, tutti ridono, non lo so. Però per loro era una roba normalissima, giuro, cioè, uomini sposati, c'era, il sesso aveva diverse, diverse aree, diversi domini istituzionali all'interno della civiltà greca, quindi della cultura greca. Comunque, una era Ebe, che era una ninfa, una semidea, una dea, invece l'altro era un giovanotto, Ganimede, che Zeus un giorno mandò l'aquila di Zeus per rapirlo, se lo rapì, se lo inchiappettò un paio di volte, e poi gli fece fare il coppiere degli dei. E quindi c'erano questi due, Ebe e Ganimede. Però Omero, in alcune descrizioni dei banchetti degli dei, in una, descrizione dei banchetti degli dei nell'Iliade, non mi ricordo il canto, non mi chiedete, però qua perché non sono un filologo, insomma, racconta che oltre a Ebe e a Ganimede c'erano altri due personaggi che versavano da bere e portavano da mangiare gli dei, che facevano i camerieri, e questi erano degli uomini metallici costruiti da Efesto. Efesto è il nome greco di Vulcano, il dio del fuoco e della metallurgia, cioè della lavorazione dei metalli. No, grazie. Non potete entrare. Però prima o poi ce la farà, si battono così. Insistente. Ehi! Vabbè. Dobbiamo fare di smettere. Allora, Efesto, che è il marito di Afrodite, sapete, la quale Afrodite dovrebbe essere moglie di Efesto, però in realtà con chi scopa? Con Ares. Va bene, ragazzi, tutto come la Bibbia, cioè tutto anche il mito qui di sesso. Ma ragazzi, però, così non tiene. Si tolgono stiamo concentrati su problemi importantissimi, cioè chi si scopano le dee dello libro. Smettete di martellarci. Per cui un giorno Efesto arriva, insomma, e scopre Afrodite che scopa con Ares, cioè Venere scopa con Marte, i nomi latini sono questi. Si incazza come una biscia e fa una serie di cose. Allora, Efesto costruisce questi due, quindi ci sono già due uomini artificiali, due robot, potremmo dire noi, in realtà sono robot, non sono robot perché non c'è ancora l'industria, il robot è una creatura industriale, vi ho spiegato l'altra volta. Il robot arriva quando arriva la forza lavoro, cioè quando gli uomini lavorano in massa tutti dentro le fabbriche, fanno tutte le stesse cose, prima ci sono degli androidi o degli automi. Comunque, ci sono degli androidi, insomma, ci sono dei personaggi di fattezze umane che servono da bere alla cosa. Quindi questi rappresentano dei personaggi che possono, diciamo, essere gli antenati dei moderni automi o dei moderni robot. Poi c'è un altro personaggio che conoscete invece benissimo, è il figlio dell'architetto che costruisce il labirinto di Creta. A un certo punto decide che si rompe le scatole perché il labirinto era così ben costruito che il mitico re Minosse decide di dire: no, tu mi piace, hai fatto il labirinto, bene, mo stai qua dentro, che non puoi uscire, non puoi andare a costruire un altro uguale da altre parti. E questo credo si chiama Dedalo e il figlio si chiama Icaro. Un mito del genere c'è in quasi tutti i miti indo-europei, cioè il costruttore di un palazzo bellissimo imprigionato dal re che glielo ha commissionato e che cerca di fuggire. C'è anche nei miti germanici e fa grosso modo anche i miti germanici, fa più o meno la stessa cosa. Allora, cosa fa Dedalo, antesignano della Litalia? si inventa il volo, si inventa gli aerei prima, cioè, e come fare gli aerei? Vabbè, insomma, se li inventa nel modo in cui poteva inventarsi una persona in quell'epoca, cioè dice, ah, facciamo delle bellissime, ci costruiamo delle ali, prendiamo le penne degli uccelli, costruiamo le ali, andiamo lì e voliamo, se voi pensate i fumetti sono pieni di, se avete visto, che compare anche nell'ultimo, naturalmente, non è su X-Men, su Wall, gli X-Men praticamente non ci sono, è una grandissima delusione, che chiama gli X-Men andare al cinema a vedere il quarto film degli X-Men che non è su X-Men. Comunque c'è Angel, c'è un pezzettino, c'è, insomma, e Angel è uno che gli punta le ali, diciamo, da sole, invece Dedalo le costruisce le ali, no? E fa due ali per sé, una per un paio per sé, un paio per il figlio, e quindi riescono, salgono sulla terrazza, e non potendo fuggire per via di terra, fuggono per via d'aria. Sapete tutti come va a finire, le ali sono attaccate, le piume sulla casa una volta con la cera, certo che anche loro, cazzo, che tecnologie primitive, non potevano pensare niente, la cera. E quindi Icaro, che è il prototipo, il simbolo del giovane sconsiderato, come dire, ribelle e sconsiderato, come dovreste essere voi alla vostra età, che però ribellione sinora non ne ho vista tantissima, qualcosina quest'anno, ma insomma. Comunque, ribelle e sconsiderato, e quindi decide, ah, no, volo, volo, e papà gli fa, papà, sì, stronzi di papà, dice, no, oh, sta attento, non andare, tanto, non è qualcosa, no, sta attento, che arriva vicino a solo, la sera si scioglie, le ali si sciogliono, si precipita nel mare Egeo, creando un grave lutto al padre. Il figlio di Voland, che è il fabbro analogo di Dedalo nel mito, nell'Etna germanica, ovviamente cade nel mare del nord, no, nel mar Baltico, non mi ricordo mai, perché è il nord della Germania, però la storia è quasi uguale. Va bene, e questo, allora, che cosa rappresenta? Questo nel libro non lo trovate, perché io ho sempre delle idee nuove su Cyborg, infatti continuerò a scrivere questo libro fino a che non muoio, perché mi vengono sempre delle cose nuove. Quindi non c'è questa cosa che vi dico adesso nel libro, però in realtà Icaro potrebbe essere nella tradizione greco-romana, potrebbe essere il primo Cyborg, perché è una persona a cui si attacca, al corpo di Icaro e di Dedalo si attaccano delle protesi che tendono a far parte del suo corpo in modo quasi stabile, insomma, sì, non è proprio stabile perché è una cosa attaccata, però insomma l'idea di trasformare, quindi capite che siamo di fronte a due, sono due diverse modalità, no? Di creare corpi artificiali. Da un lato, Stella. Dimmi? Padre di Stella. Sì, Stella, sì. Stella, che sì. Allora, sono due diverse modalità. Da un lato c'è l'artefice, il tecnico, il fabbro, quello che sa nella cosa antica, quello che sa lavorare i metalli, no? Lavorando i metalli costruisce degli esseri totalmente nuovi, totalmente artificiali, che però riesce in qualche modo a fare comportare come esseri umani, per esempio ad addestrarli per fare i coppieri, per fare i portatori di bevande e di cibo ai banchetti dei. Sono i due automi, o come chiamiamoli come cazzo vogliamo, descritti da Omero in un canto dell'Iliade. Dall'altro invece c'è un'altra modalità, si prende il corpo dell'uomo così com'è e gli si aggiungono delle cose e si artificializza il corpo dell'uomo. Una ventina d'anni fa, no, un po' di più, beh, quindicina d'anni fa, non tanto di più, pensando a questa cosa, riflettendo alla questione degli uomini artificiali, eccetera, e siccome erano gli inizi di internet, mi venne in mente di costruire una tassonomia, una classificazione, una divisione in tipi degli uomini artificiali, e quindi in un libro che pubblicai nel 1996, che non è più in giro, per questo momento non mi faccio mai comprare, ma che forse è la cosa più interessante che ho fatto, che si chiamava Il corpo virtuale, presentai questa idea di dividere i corpi artificiali in tre categorie. E questa suddivisione ebbe, tutto sommato, è stata accettata ormai. Nessuno dice che l'ho fatta io, però va bene lo stesso. Allora, dissi, ma probabilmente i corpi artificiali possono essere divisi in tre grandi categorie, pensai. Una è quella del corpo replicato. Ovviamente la presi il nome ovviamente dal film Blade Runner. In effetti l'idea di chiamare replicanti in inglese i robot, insomma, è prima di Blade Runner non c'è nessuna traccia che sia mai stato usato questo termine. In effetti Dick non lo usa, però è insomma ed è una parola che per il parlante inglese sembra un po' strana, ma è comprensibile perché gli inglesi hanno il termine replica nel loro dizionario. Replica vuol dire un doppio, una. Quindi il replicant è qualche cosa di artificiale che replica il corpo umano. Quindi il corpo replicato sono gli androidi, gli automi, i robot, cioè esseri totalmente artificiali costruiti integralmente dall'uomo, artefatti, manufatti, prodotti o dell'artigianato o dell'industria, che però si comportano nella fantasia o a poco anche nella pratica come esseri umani. I robot realmente esistenti si comportano come esseri umani rispetto a qualche diciamo particolare aspetto della performance umana, non è che danno né la complessità né l'intelligenza, però per esempio se noi sono dei robot industriali prodotti per fare certi particolari lavori, i primi robot industriali, cioè su larga scala, sono quelli dell'industria automobilistica introdotti alla fine degli anni 70, per esempio per fare la verniciatura. La verniciatura delle carrozzerie fino agli anni 70 era fatta da esseri umani, era uno dei lavori più terribili e sconvolgenti che un essere umano potesse fare, perché è vero che sì, però c'erano degli esseri umani che dovevano entrare dentro delle cabine di 4 metri, 4 poco più, con il pezzi di carrozzeria e con una pistola a dugello dovevano verniciare, cioè passare la vernice sopra il metallo grezzo di queste, che poi sono le robe delle macchine, sono le portiere, il tetto, eccetera, che poi venivano montate successivamente. Era un lavoro terribilmente nocivo, perché qualcosa di questa vernice, cazzo, prima o poi dovevi respirare, insomma era uno dei lavori più bestiali dell'industria automobilistica dell'epoca fordista, insomma, ed era per cui quella gente si incazzava di più. Adesso non cazzo io, è una spedizione punitiva, andiamo a. Sull'onda delle lotte operaie, della contestazione, effettivamente riuscirono a trovare delle macchine automatiche, perché non poteva essere un processo automatico, diciamo totale, nel senso sì, era automatico, ma non è che potevano prendere la roba lì, metterla lì, piazzare un ugello davanti, perché c'era sempre un piccolo scarto, una roba, insomma, se la vernice non si distribuiva quindi non era possibile. Quindi allora si inventano delle macchine, cioè dei robot, delle macchine che sanno leggere anche i minimi eventuali spostamenti della lamiera e quindi cambiare la direzione dell'ugello che espulsa la rete, questo era il problema. Quindi i primi robot, tra i primi, non so se sono i primi quelli che mi ricordo io di aver sentito parlare, cioè di robot industriali, cioè di cose, allora cioè una, chiamare robot una roba di questo tipo ci può far ridere, ma come, non sono robot? Beh, in effetti però sono sistemi che funzionano in qualche maniera con, diciamo, a direzione informatica, sono delle cose della cibernetica, perché sono in grado di cambiare il loro comportamento a seconda di piccole variazioni, diciamo, nell'ambiente. Poi a poco hanno fatto robot per lavori industriali un po' più complicati, per fare delle riparazioni in posti dove gli esseri umani o non possono andare o sarebbe veramente nocivo che andassero, tipo all'interno di tubi molto stretti, eccetera, eccetera, insomma, di condutture, di cose di questo genere. Insomma, è stata creata dagli anni 60-70 in poi, si è costruita tutta una gamma di robot industriali. Adesso i giapponesi stanno pensando a una nuova generazione di robot in grado non solo di intervenire nell'industria, ma anche in alcuni limitati aspetti della vita quotidiana, per esempio i robot che spacciano per terra e che hanno problemi di enormi, problemi enormi, perché, cioè, per terra non è che le nostre case, no, a parte casa mia che è molto peggio, ma anche una casa molto più ordinata di esseri umani normali ha sempre qualcosa nei pavimenti, insomma, non è proprio, eh? E allora il robot dovrebbe essere in grado di riconoscere l'ostacolo, girare, stare, questo è un compito molto difficile, però a poco qualcosa, più altre vaccatine, vabbè, tipo quelli che vanno più sui media, Aido, insomma, il cagnolino, Cascolino, insomma, c'è robot la compagnia, diciamo, ma spesso cazzatine, insomma. Comunque ci sono dei robot ormai, c'è una ricerca, insomma, certamente non sono i robot di Asimov o quelli dei film, insomma, però in qualche maniera ci sono. E allora io dico, questa è la categoria del corpo replicato, cioè oggetti costruiti totalmente artificiali, costruiti totalmente dagli esseri umani, che replicano, riproducono in una o nell'altra, in uno o in un altro aspetto limitato, il comportamento degli esseri umani. Poi c'è il corpo, che l'ho chiamato invaso. Il corpo invaso, fondamentalmente, all'epoca in cui io, alla metà degli anni 90, mi inventai questa tassonomia, era praticamente solo il cyborg. Il cyborg che io poi ho chiamato elettromeccanico. Cioè l'idea, c'erano già alla metà degli anni 90 cyborg, beh certo che c'erano. C'erano le persone che avevano avuto per esempio delle operazioni al cuore e gli avevano impiantato dei bypass. C'erano le persone che si erano fatte, si erano fratturate delle ossa particolarmente delicate e i due tronconi dell'osso erano stati soldati con dei pezzettini di metallo particolare. E in una certa misura anche i portatori di pacemaker possiamo considerarli dei cyborg, perché in qualche maniera è vero che il pacemaker non entra dentro, però in certi casi ormai lo mettono dentro, però anche se non entra dentro in realtà interferisce come funzionamento con il battito cardiaco, quindi c'è una interrelazione funzionale. È più dubbio, è meno pertinente considerare dei cyborg le persone con una gamba di legno, per esempio Long John Silver, il pirata dell'isola del Tesoro, tutti quelli di quell'epoca che erano le gambe amputate, gli costruivano delle gambe di legno, infatti camminavano con la gamba rigida, perché ovviamente c'era ancora, cioè, poi ha poi inserito l'articolazione al ginocchio, c'era anche le mani artificiali fatte a quelli che avevano perso le mani, fino agli anni 70 erano dei blocchi di plastica rigidi, adesso fanno delle cose un po' più specifiche. Era difficile pensare, parlare di cyborg per esempio per le lenti a contatto, perché me le posso togliere quando voglio le lenti a contatto, quindi non è. Per parlare di corpo invaso, cioè di cyborg, a mio parere, bisognava che gli elementi tecnologici fossero impiantati stabilmente nel corpo, quindi che non si potessero mettere e togliere a volontà dell'utente, ma si potessero mettere e togliere eventualmente solo con l'intervento di tecnici specializzati, per esempio di medici o di persone così. Allora la saldatura metallica all'interno dell'osso configura un cyborg, il bypass cardiaco coronarico configura un cyborg, anche quelli che hanno degli, anche senza avere l'infarto, senza avere cose, ma hanno l'infarto, hanno dei piccoli episodi di infarto, hanno le coronarie strette, il cuore va bene, ma il diametro di una o più delle vene o delle arterie sia ristretto, allora gli fanno un interventino, gli infilano un piccolo divaricatore, una cosa minima, un piccolo pezzetto di sostanza inerte che però serve per tenere allargate fino a un certo punto, non troppo, le pareti della aorta o di arterie del genere, e quelli anche sono cyborg, perché hanno ormai dentro il corpo un pezzo di cosa estranea, che non, no? Un pezzo di cosa artificiale. Quando scrissi questo libro, a metà degli anni 90, quando, come so, era da vari anni che ovviamente il libro di Cyborg l'avevo scritto 10 anni prima, però 10 anni dopo cominciai a, insomma, riflettere a come si potevano mettere in relazione queste robe. Sapevo che il Cyborg era collegato con il robot, eccetera, però non mi era ancora venuto bene in mente questa cosa. In realtà all'inizio, quando scrissi il Cyborg, per esempio l'idea di creare delle modificazioni artificiali nel corpo degli esseri umani in maniera diversa da quella meccanica o elettrica non era ancora chiaro. 10 anni dopo era già più chiaro, magari non era stato fatto, ma le prime fantasie sulla clonazione c'erano già negli anni 80. Negli anni 90 l'idea della clonazione era, e soprattutto l'idea era già nata tra la fine degli anni 80 e degli anni 90, era già nata l'ingegneria genetica. Cos'è l'ingegneria genetica? È la possibilità per gli esseri umani di modificare non i singoli organi, ma le istruzioni del codice genetico che regolano singole parti o singole funzioni generali del corpo umano. Allora, in quegli anni mi chiesi, ma un essere umano che nasce per effetto, che nasce geneticamente ingegnerizzato, cioè perché il suo DNA è stato modificato per esempio prima della nascita, e ha un DNA diverso da quello che gli avrebbero trasmesso naturalmente i suoi genitori con l'atto sessuale normale, come devo considerarlo? È un essere umano naturale? Non è totalmente naturale, perché c'è stato un intervento, il film Gattaca l'avete visto? Chi ha visto Gattaca sa di che cosa si parla. In Gattaca l'idea è che le pratiche di modificazione genetica sono diffuse su tutta la specie umana e quindi nessuno ha più dei figli in maniera, virgolette, naturale. Ogni volta che uno decide di fare un figlio, quindi la generazione, la nascita di un bambino diventa più direttamente un fenomeno sociale di quanto non sia oggi, perché deve essere pianificato da organi, cioè diciamo, è ovvio che c'è una cosa del 1984, cioè di società programmatrice che programma e regola i destini dei singoli. Quindi quando uno vuole un figlio decide con quali caratteristiche averlo. Lo voglio più o meno bello, più o meno intelligente, addirittura, vabbè, questo ovviamente è un'utopia, è cazzato, non è che si può fare così, però nel film si ipotizza che si possa fare davvero. Lo voglio più o meno versato nelle scienze esatte o nell'arte o nella letteratura, voglio che sia bravo in questi campi, baccata come ovvio, insomma, però, oppure voglio che sia bravo in questo o quest'altro campo della scienza, o voglio che abbia un fisico tale da poter fare bene la pallacanestro piuttosto che i 100 metri. E i figli naturali che nascono sono delle eccezioni, quelli naturali come quelli che nascono adesso, cioè quelli che nascono con la lotteria di geni, in cui i geni di papà e mamma si mettono in maniera casuale e quindi danno luogo a delle persone, ognuna le più varie, anche i fratelli che sono nati dalla stessa. I gemelli eterozigoti, che sono addirittura gemelli ma eterozigoti, sono nati da due diversi ovuli, che caso eccezionale sono riusciti in due a superare la prova, lo sbarco di sbarramento che la vagina femminile giustamente diciamo oppone all'invasione di sti cazzo di spermatozoi onnipresenti e invadenti. A volte ne capitano due, però sono due diversi spermatozoi maschili che si uniscono nello stesso ovulo, e quindi il materiale genetico potrebbe essere più omogeneo in due fratelli diversi. Invece se sono eterozigoti, se sono omozigoti, no, ma insomma, quindi le caratteristiche somatiche sono, io sono stato una volta, vari anni fa, ho avuto una fidanzatina che aveva un gemello eterozigote, lei era alta 1,60 m, paffutella, e il suo fratello era un lungone di 1,90 m, lungo come Fabio e me messi insieme, e anche un po' niente. Però voi siete più vicine, voi siete più simili, questi due erano diversissimi proprio, cazzo, veramente diversi. Cioè sembravano, non si capiva come cazzo fosse. E adesso sì, lo leggo, me l'hanno detto l'altro ieri sera, io non leggo, cioè leggo poco queste robe dei giornali, beh questo è un caso veramente unico. Non è successo? Certo che una signora, beh questo lo so, adesso entriamo nella privacy di una signora che per fortuna non sappiamo chi è, comunque, che si fa scopare a pochissime ore di distanza dal marito e dal suo amante, tu pensa un po', ma proprio poche ore, no? E tutti e due gli spermatozoi, uno del marito e uno dell'altro, secondano. Quindi questa qui ovviamente lo sa, c'ha il dubbio, perché lei non l'aveva detto ovviamente al marito, cioè. Me l'hanno raccontata, non lo so io. Dopo, perché è tornato il bambino, perché per tutta la roba è stata zitta, perché dice cazzo, vediamo cosa succede. Perché non era mica sicuro pure lei. Quando nascono questi due bimbi, totalmente diversi, allora lei chiede, dice, beh cazzo, adesso bisogna che lo dica, e dice, vabbè, no, perché ho fatto l'amore con due uomini diversi a poco tempo. E quindi uno è figlio del marito, quindi sono due. Tecnicamente sono gemelli eterozigoti, perché hanno fatto una gravidanza, però con tre genitori sono figli di due padri diversi. No, io stavo pensando al adesso non lo so, ma insomma vabbè, voglio dire, il marito pare tutto contento in televisione, il parco facesse pure così, vabbè, contento se uno dice, vabbè. Ma io sto pensando all'altro padre, povero, che ha un figlio e magari sa chi è, ma non può interessare, come dire, socialmente non è proprio suo figlio, insomma, è una roba strana, perché, insomma, questo è un caso limite, d'altro. Sì, su un milione, perché non capita mai, perché appena l'ovulo viene fecondato e comincia ad impiantarsi, se non mi ricordo male, allora, cellula, ovulo fecondato, 2, 4, 8, 16, la blastula, e 16 è rapidissimo, cioè 2 ore dopo sono già, 4 ore dopo sono già 16, e dopo i 16 è escluso qualunque altro impianto, nessun ovulo si può più impiantare perché si è già entrato 2. Questo qui è riuscito, il secondo, ad impiantarsi in questo brevissimo intervallo di tempo in cui era ancora possibile, insomma, ma se no di norma cioè la, come dire, la gravidanza successiva è come dire, esclusa. Infatti uno dei metodi anticoncezionali di tutte le popolazioni è fare l'amore quando si è incinta, perché insomma anche i primissimi tempi tanto si sa che sei a posto, insomma, poi non ti nasce più un bambino, quello che deve nascere, è già lì, insomma. E invece in questo caso povera Chiesa sfigata, quindi questa ha dovuto ammettere questa roba qua, però pare stata bene. Va bene, allora dicevo, quindi in Gattaca c'è questa storia, Gattaca è la storia di un ragazzo che è, virgolette, normale, cioè che è un figlio naturale e non geneticamente modificato, che si sostituisce, riesce a sostituirsi ad una delle invece persone geneticamente modificate per fare certe cose, perché questa persona qua geneticamente modificata ha avuto un incidente, è rimasto paralizzato, quindi non può più fare quello che voleva fare prima, per cui in qualche maniera gli vende i suoi dati, quindi gli vende questo qua, si fa passare per l'altro. Il geneticamente modificato è un bravissimo Giallo, e l'altro non mi ricordo chi è. Ethanol, ok, un bel film, insomma, interessante, per i problemi che pone. Allora, mi chiedevo io, insomma, personaggi del genere, cioè esseri umani del genere, cioè esseri umani effetto di una modificazione del DNA, non sono cyborg nel senso tradizionale, non sono, il loro corpo non è stato invaso da elementi materiali dopo la loro nascita, no? Non hanno dei pacemaker, dei pezzi di arteria artificiali, delle ossa artificiali, non hanno né protesi, niente, però sono OGM, cioè il loro essere, il loro corpo è stato lo stesso invaso da qualcosa, pensavo io, da qualcosa di immateriale, non di materiale. E allora ho deciso di chiamarli cyborg genetici. Perché sono cyborg anch'essi, cioè sono cybernetic organism, cioè sono organismi modificati da cosa? C'è stato un intervento, c'è stata un'invasione in qualche maniera, c'è stata un'invasione prima della nascita, e non è escluso che possa essere, adesso per il momento non si può fare, ma non è escluso che si possano trovare delle tecniche capaci di modificare il DNA anche dopo la nascita di una persona. Non è escluso. O certi effetti o certi modi. È un campo talmente vasto, talmente aperto a novità di ogni tipo, che non possiamo escludere questo. Comunque c'è un modo di invadere il corpo che non è esattamente quello di prendere dei pezzetti di tecnologia materiale e sostituirli a dei pezzetti di organo, il cuore artificiale, eccetera, eccetera. C'è un modo di modificare gli esseri umani, il corpo degli esseri umani, quindi di invadere il corpo degli esseri umani con elementi tecnologici, cioè di tecnologia, anche in maniera immateriale, sono le biotecnologie. Quindi gli esseri umani modificati in maniera biotecnologica sono anch'essi, secondo me, cyborg. E li ho chiamati cyborg genetici. Già nella prima edizione del Cyborg dell'85, ma ancora di più nella seconda del 2001, però, avevo già visto un film che ha avuto molto peso nella mia vita, di un autore che amo molto, che è David Cronenberg, e il film era Videodrome, 1980-81, mi ricordo, comunque sul libro trovate la cosa giusta. Poi viene la mosca, eccetera. Ma io sono più legato a Videodrome, perché per certi versi Videodrome mi appare più... Videodrome era un film... Chi è che l'ha visto qua Videodrome? Tutti? Però qualcuno no, quindi... Per coloro che non l'hanno visto lo racconto se ce la fate a procurarlo e a vederlo, è un film molto istruttivo. Allora, Videodrome racconta, Videodrome è, per dirla in breve, una illustrazione delle teorie di McLuhan, che il mezzo sia il messaggio, cioè che le tecnologie modificano i modi di pensare della gente, che non siano cose neutre, ma che ogni tecnologia di comunicazione abbia porti con sé una modificazione del modo di pensare. È tanto figlio di McLuhan questo film che uno dei personaggi principali del film è proprio McLuhan, di fatto, chiamato sotto le vesti di professor Oblivion, si chiama. Oblivion, noi che siamo italiani possiamo capire benissimo cosa significa, è anche oblio, mancanza di memoria, dimenticanza. Il professor Oblivion è una persona che è morta, nel film è già morto e compare solo in video, però c'è sua figlia che ha un grande peso nel plot del film. Il film parla di un produttore televisivo, Max Wren, un ottimo James Woods come attore, che gestisce una piccola, dunque tenete conto che David Cronenberg è canadese, che ha prodotto quasi tutti i suoi film in Canada, quindi anche al di fuori del giro delle major statunitensi, le poche volte che ha lavorato per le major comunque è riuscito a imporre il suo punto di vista. È una via di mezzo tra un cineasta indipendente e un cineasta. I primi film li ha fatti tutti con i fondi del finanziamento pubblico, insomma, con i soldi dello Stato canadese, che negli anni 70 erano molto più generosi del Canada di oggi e ovviamente dell'Italia di oggi o dell'Italia degli anni 70, però grosso modo, insomma, questa è la cosa. Videodrome è stato non il suo primo, perché è stato il suo quinto o sesto, credo, però forse il primo di un certo, diciamo, successo, insomma. E quindi allora, racconta di questo Max Wren, produttore televisivo di, non mi ricordo più come si chiama la rete, Civic TV, se non mi ricordo male, che manda dei programmi porno soft però non hard, e quindi cerca cose sempre più, virgolette, eccitanti in quel campo, su quel campo lì. Quindi parla con dei produttori porno, incontra una giornalista radiofonica in un dibattito televisivo, si fanno l'amore un paio di volte, eccessivo dire che si innamora, vanno a letto un paio di volte, però lui si affeziona abbastanza e questa signora ha delle marcate preferenze masochiste, quindi gli chiede di spegnere le sigarette sul seno e altre robe del genere. Mentre scorre parallela a questa storia, una vecchietta, una simpaticissima lottelenia, vecchissima, che era una delle star degli anni 30, degli anni 40, no? C'è anche in un film, in uno dei film di 007, già abbastanza vecchiotta, con Sean Connery, che fa la parte di una procacciatrice d'affari di questo campo, e gli lo mette in contatto con un misterioso segnale televisivo, con una misteriosa stazione televisiva che non so bene dove sia, chiamata Videodrome, che trasmette materiale pornografico, ma non soft come quello che trasmette Max, ma veramente duro. Max rimane affascinato da questa cosa, cerca di stare in contatto con questi e scopre che in qualche strano modo questo segnale è collegato con una specie di chiesa che si chiama, non mi ricordo più come si chiama, chi se lo ricorda? Nessuno se lo ricorda. Che è la chiesa fondata dalla figlia di questo professor Oblivion. Il professor Oblivion è una persona che sarebbe morta per misteriose malattie collegate con la televisione e che compare solo in cassetta. La figlia possiede una stanza intera, allora tutto questo è prima di internet, quindi cioè, sono le tecniche analogiche, però già c'è l'idea del grande, vabbè, come c'è anche nei predatori dell'arca perduta, nel finale dei predatori, quando c'è il grande magazzino delle cose, poi finisce l'arca, quella di... E insomma, ci fa vedere queste robe, eccetera, e in una cassetta, però è una cosa strana, perché questa in alcune di queste cassette sembra che Oblivion parli direttamente con Max Rem, che gli risponde, quindi uno non capisce, dice, cazzo, ma come, non sono cassette preregistrate, in maniera sono interattive, no? Questo non è chiaro, insomma, non è chiaro, però dal 1981, quindi, cioè, non solo 7, 8, 10 anni prima che nascete voi, ma insomma, in un momento in cui ancora non... Però erano effettivamente quegli anni lì, insomma, gli anni in cui si cominciava a costruire, si cominciava a capire che c'era un paradigma nuovo sia nel campo della comunicazione che in tanti altri campi. Oblivion spiega a Max Ren che Videodrome è una specie di segnale televisivo cancerogeno che provoca malattie, provoca dei cancri, e che infatti lui, Oblivion, è morto a causa di questo, cioè il suo corpo è stato invaso, quindi dice stai attento. Adesso non ve la faccio lunga perché è troppo lunga, insomma, però diciamo le due scene fondamentali per la tematica del cyborg sono quelle nella quale un collaboratore di Max, che si scoprirà poi essere una spia di Videodrome, tenta di, virgolette, programmare Max, facendo cosa? Infilandogli una cassetta nel corpo. Allora, io, se voi dovete sapere, chiaramente ripeto, lo so, perché noi all'epoca non ridevamo, perché non c'era ancora neanche il computer, sì c'era, ma non era, cioè io ebbi il mio primo computer, lo comprai nell'88, sono uno dei primi, insomma, un po' fuori del giro degli altri lavori che l'ha avuto in Italia. I primi computer cominciarono nell'85, i primi personal computer, i computer di prima erano, vabbè, quelli che c'erano anch'io nella mia facoltà di matematica negli anni 60, a Genova c'era già un computer, però io non facevo quel genere di cose, non sono sempre disinteressato. Allora, oggi uno dice, programmo uno, e cazzo, gli mandi un'onda, gli mandi una roba qualunque, oggi hai tutt'altre metafore, perché c'è internet, c'è il computer, sai, all'epoca non c'era questa metafora, quindi come fa questo tipo per programmare Max Ren? È una scena veramente, cioè, è forte, c'è poco da fare, cioè nel senso che io so lo stomaco, però insomma molta gente è rimasta un po' così, perché questo afferra una cassetta e gliela sbatte addosso, nel momento in cui gliela sbatte addosso gli apre la camicia di Ren e sullo stomaco di Ren si apre una ferita, cioè da qui a qui si apre una cavità, non dico nulla di nuovo, cioè è chiaro che c'è un immaginario anche vaginale, insomma, si può fare, insomma, cioè, è una cosa femminile, è una cosa... questo qua, e a forza gli infila la cassetta lì dentro. La scena è preceduta da, prima di questo, c'è stata la prima volta che si è capito qualche cosa, gli arriva a casa di Max Ren, sempre una video, quindi pensiamo alle vecchie videocassette, cioè, mi rendo conto che è archeologia per voi, però è, negli anni 80 quella era il modo in cui si guardava l'immagine del... Quindi gli viene recapitata a casa una videocassetta da parte di questa sua amica della radio, che è scomparsa, non si trova più, e questa gli manda questa videocassetta. Questa videocassetta, come lui la tocca, c'è il primo piano della videocassetta, comincia a muoversi, a sussultare, come se fosse un corpo vivo, come se fosse... insomma, noi maschi guardiamo un corpo femminile, insomma, anche le femmine, penso, guarda, insomma, è una roba sensuale, una cosa che ti comunica sesso, insomma, non ti sono visto, cioè, come se fosse. Tanto è vero che lui poi mette dentro questa cassetta nel video e compare la faccia di questa, in un primissimo piano del viso di questa ragazza, c'era le labbra molto piene, insomma, ben truccate, con il rossetto, eccetera, e lo schermo televisivo comincia a protrudere, esce fuori, come fosse di plastica, come fosse morbido, come fosse un essere vivente, e praticamente c'è un bacio tra Max Ren disteso per terra e il video e la bocca di, non mi ricordo come cazzo si chiama questa ragazza, in video, cioè lui bacia il video ma bacia le labbra di una donna, insomma bacia le labbra di una ragazza. Quindi questo è la prima volta che gli oggetti si animano in quel film, che acquistano comincia a non esserci più distanza tra l'inanimato e l'animato, gli oggetti inanimati si animano. E poi a un certo punto addirittura gli oggetti inanimati, cioè le cassette TV, possono entrare a far parte del tuo corpo. Questo arriva, ti in qualche maniera magica gli apre una... quando vidi il film la prima volta al cinema ero dubbioso, ma la seconda volta che lo vidi per televisione e lo registrai, perché non avevo la cassetta, lo registrai nel capodanno del 83-84, qualche anno dopo, che lo mandò Ghezzi, maledetto, con una serie di sottotitoli del cazzo che mi sono rimasti, adesso non so più vedere più i VHS, ma per vario tempo, quando dovetti fare, per dire, delle video compilation eccetera, dovevo stare attento a prendere i pezzi che non ci fosse sotto il countdown del capodanno di quell'anno lì. E quando lo rividi era già la terza o quarta volta, perché io mi innamorai subito di questo film, capii che era una roba centrale, lo vidi prima di scrivere il libro su Cyborg, comunque no. E ero incerto se fosse classificabile come un film di fantascienza, perché è vero, aveva degli inequivocabili elementi fantascientifici, cioè si parlava di una tecnologia che aveva degli effetti che nel mondo reale ancora non ha, che poteva avere ma che non aveva. Però aveva degli elementi, il cinema di Cronenberg è molto del cinema di Cronenberg, potrebbe essere classificato fantascienza, non solo Videodrome ma anche La Mosca, cioè La Mosca è il remake di un classico film di fantascienza degli anni 50, l'esperimento della K, con il protagonista Vincent Price. Anche altri non sono fantascienza, La Zona Morta è tratto da un romanzo di King, quindi è horror. In genere Cronenberg mescola sempre la fantascienza con l'horror, quindi anche qua ci sono elementi horror in questo film. È ovvio che la fessura che ti si apre nel corpo e consente di ospitare una videocassetta che... Però è una scena poco convincente. Forse voi che l'avete visto, forse voi siete di un'altra, sono passati 20 anni e diventa poco convincente, grazie al cazzo, anch'io sapevo che non si può fare, cosa cazzo vuoi dire? No, lo so, no. Cioè, vabbè, grazie all'anima, lo so, poco convincente. Io però sono rimasto, cioè... No, non vuol dire. Poco convincente in che senso? No, allora, è un film che ha la grammatica dei film di serie B, trash ce ne fosse di trash così. Sì, è dei primi, è dell'80 o dell'81. No, trash nel senso che a volte sembra veramente un TV movie, non sembra neanche un film. Ma questo è il modo di fare di Cronenberg. Chi ha visto Existence? Pochi, vedi, Existence meno. Allora, Existence è Videodrome 100 volte meglio. È lo stesso tema di Videodrome, uguale, identico, solo che al posto della TV ci sono i videogiochi. Sono passati 12 anni, 15 anni, però l'idea è sempre la stessa. Perché poi, adesso non vi ho detto che qual è un'altra delle idee fondamentali di Videodrome. Perché la seconda cosa che... prima vi dico la storia della videocassetta, la seconda volta, però sono due le scene in cui nel corpo di Max Ren si apre la postura. Allora, prima è quella della cassetta, la seconda è quando invece Max Ren si infila qualcosa nel corpo da solo e si infila una pistola. Si infila una pistola che gli danno quelli, perché poi c'è un giro che lui dovrebbe diventare, prima per una fase diventa praticamente succube di Videodrome, cioè la videocassetta lo ha davvero programmato, però lui riesce in qualche maniera a ribellarsi e quindi poi si ribella a Videodrome. Però si ribella a Videodrome in una maniera, questo è il lato affascinante del film, cioè poi dopo ti arrivo, prima di finire la cosa, okay. Allora, la seconda volta lui si infila una pistola dentro alla cosa. Allora, c'è una pistola. Quando si trova in una riunione pubblica e c'è una scena bellissima in cui lui si rinfila dentro la mano e la cosa fondamentale di questo film è che l'artificiale non ha la asetticità del metallo, ha la sporcizia e il carattere liquido e morbido nel senso anche di malato dei tessuti vivi. Un po' tutto silicone perché sono così, certo, però dico, insomma, cioè, se la vediamo un film di fantasia classico, l'artificiale sono i robot, metallo, le cose, Star Wars, Star Wars non c'ha questo immaginario, no? Ha l'immaginario in cui l'artificiale è una dimensione separata dal biologico, dal fisico, invece in Cronenberg l'artificiale entra dentro il biologico e il fisico. Sì, però gli dico che non è convincente, perché non vengono creati i posti per i quali tu accetti quello che vedi. Sì, nella trama ci può stare che lui infila la cassetta della cassetta. Sono altri film Cronenberg che... Invece lì, in quella situazione che lui che non piace, c'è la cassetta della pancia, dici, sì, cioè che infila la cassetta della pancia non è possibile, chiaramente non è possibile. Però lo sappiamo tutti. Non ha creato posti che fanno dire, ok, ci sta. Discordo da te, il film li ha invece creati, secondo me, perché tutte le scene precedenti, quando si è parlato di Videodrome, si è detto cos'è Videodrome, c'è stato già il primo discorso di Dan Oblivion con lui, quindi tu hai già capito che c'è una commistione tra il regno della comunicazione, le tecnologie e i comportamenti fisici del corpo. Cioè, io come capisco la tua critica, dico che per me non vale, cioè per me non è immotivata da questo punto di vista, è immotivata nel senso che nessun regista, diciamo virgolette, realistico l'avrebbe messa e neanche nessun normale regista di fantascienza, ok? Però non è vero che è immotivata. Ci sta anche che si presentano cose. Sì, ok, ok. Però nell'evoluzione del film, arrivato quel momento... È possibile avere un'opinione come la tua. Non è la mia, cioè io invece ho trovato, sia la prima volta che l'ho visto, sia le volte successive, che fosse già stato abbastanza preparato. Tieni conto che il cinema di Cronenberg è pieno di cose, posso dire, cioè è pieno di cose apparentemente immotivate. Se guardi il cinema, cioè il cinema di Cronenberg è più simile al classico cinema surrealista, quello del primissimo Buñuel, e da lì L'Age d'Or Ancien Andalou, eccetera, eccetera, in cui ci sono un sacco di robe che sono, come dici tu, certo, diciamo, dentro una convenzione più o meno di cinema narrativo, ok, ingiustificate, certo. Il fatto è che, per questo che a me interessa così tanto Cronenberg, perché è uno che mette, pur facendo cinema normalissimo, perché è un cinema che va nelle... però fa un cinema che mette in crisi il paradigma narrativo, proprio con cose di così, proprio con cose che tu dici non si capisce bene perché, insomma. La scena in cui Max Ren tira fuori la pistola da dentro il suo corpo è meravigliosa, perché lui la tira fuori, la sua mano emerge, questa mano con stretta intorno alla pistola e grondante di liquido organico, cioè proprio è proprio il muco, non la saliva, non è un liquido, è un liquido denso, è un liquido dell'interno del corpo e del funzionamento del corpo, è la corporalità, la dimensione più interna, più nascosta, più vergognosa, più imbarazzante della corporalità portata sullo schermo, no? E poi segue dentro a questa cornice, così horror, perché è la stessa roba dello splatter e del gore, cioè il sangue del cinema splatter cinematografico, che non è sangue, sapete, ma è pomodoro, no, perché il pomodoro ha una consistenza, eccetera, per cui visivamente sembra, non c'è di meglio che il pomodoro, non ovviamente il pomodoro con i semi, la passata di pomodoro opportunamente colorata è il miglior sangue per tutti, che sia. Questo è ancora più denso del sangue dello splatter e del gore, è proprio una roba che ti piglia allo stomaco perché ti tira fuori il cazzo. Eccola la vita, questa è la vita, non quella di cui parla il signor Ratzinger, non la cosa sacrale, cioè la vita è un processo di sofferenza, di sporcizia, di impurità, di non chiarezza, di e però poi su questa cosa, da questa mano che gronda sangue, tu hai una delle scene più classiche invece della fantascienza tecnologica, cioè è bellissima secondo me, dalla pistola in primo piano, da questa pistola che è artificiale, ma che questo muco che avvolge insieme pistola e mano rende un elemento del corpo. La pistola è già stata, come dire, corporeggiata, assorbita nel corpo. E però da questa cosa ecco che riesce il suo carattere artificiale. Dal calcio, dal fondo, che sporge appena un attimo da sotto il palmo della mano di Max Ren, emerge un tubicino che si muove da solo, quindi ancora una volta è dotato di movimento, quindi sembra una cosa viva, però probabilmente è inequivocabilmente metallico. E altro che la scena di Terminator in cui Schwarzenegger si taglia il braccio ed escono le bacchettine di ferro. In questo caso non c'è nessuna bacchettina di ferro che sta lì inerte e Schwarzenegger gli gira un cazzo di cacciavite e questa... No, questa è una cosa inorganica, metallica, artificiale, che però si muove come un essere vivente e si muove così bene che esce di qua sotto, si avvicina al polso di Max Ren, lo buca. Io ho un orgasmo ho avuto quella scena perché è troppo bella. Okay. E si infila nella dimmi. Cosa? Oh, Tetsuo l'ho visto dopo, guarda. Tetsuo è un'altra roba, ok. Comunque c'è scritto anche di Tetsuo nel mio libro, ho scritto di tutte le robe ovviamente, mica solo di questo, sto raccontando di questo, Tetsuo è più barocco, è più, come dire, sovrabbondante, c'è troppa roba per certi versi dentro Tetsuo, però cosa? Nel mio libro si parla anche di Tetsuo. L'hai letto male, forse non tanto a lungo, ma si parla anche di Tetsuo, sia uno che due, sia il Tetsuo uno che due che erano quelli che ho visto all'epoca. Poi gli altri di Cosmo non li avevo ancora visti quando ho scritto il libro, ma certo anche il suo. C'è una cosa che manca nel mio libro ed è il cyborg a fumetti. Non ho parlato dei fumetti che probabilmente invece poi ve lo dirò, penso una volta a lezione. In realtà il fumetto probabilmente è il dominio dell'immaginario in cui ci sono più cyborg di tutti, perché cioè, gli X-Men sono in qualche maniera tutti in qualche modo dei cyborg genetici, in qualche modo, ma tutti i mutanti in qualche maniera possono essere considerati cyborg, poi ci sono cyborg più proprio specifici. Io mi sono limitato prevalentemente alla letteratura e al cinema dal punto di vista dell'immaginario, poi ho pensato. Insomma, questo tubicino entra dentro il corpo di Max e quindi a questo punto la pistola è diventata un elemento del suo corpo, si è fusa con il suo corpo. Allora io ho detto, allora era chiaro che questo era un cyborg, era chiaro che questo era un corpo invaso, però era un corpo invaso, certo, in parte era un cyborg, c'erano delle caratteristiche che facevano pensare al cyborg elettromeccanico. Non c'era nulla che facesse pensare a un cyborg genetico, ma anche il cyborg elettromeccanico gli andava stretto, perché non è una operazioncina bella pulita, intuitivamente, ti tolgo un pezzo di braccio, tolgo il tendine e metto un pezzo di ferro, tolgo il cuore e metto una pompa artificiale, va bene. No, era una modalità in cui l'organico e l'inorganico si mescolavano, si pasticciavano, si ibridavano, era un ibrido molto più profondo. Ma cos'era l'elemento centrale? Che cosa faceva cambiare Max Rehn? Mi sono messo a pensare a questo. Che cosa faceva cambiare Max Rehn? Qual era l'elemento che giustificava la biologia, a parte agli occhi di altri spettatori, e sicuramente di Cronenberg, che ha fatto il film, che giustificava anche le scene più strane, improbabili e fisicamente assurde, come quella della cassetta, della pistola, della mano, fino al finale, che è meraviglioso, in cui praticamente Max Rehn si suicida e al grido di gloria e vita alla nuova carne, suicida se stesso, ma mentre lui muore, quello che scoppia non è lui, ma è un televisore che sta di fronte a lui, e che scoppia e sparge per tutta la sala budella umane, quindi hai l'interno del corpo, e ovviamente qua Sant'Agostino si rivolta nella tomba, perché quando dice non uscire da te stesso, all'interno dell'uomo abita la verità, e invece all'interno dell'uomo, dice Cronenberg, abitano tutte queste belle schifezze, cioè però sono all'interno dell'uomo, no? Letteralmente, lo so, non mi faccio sentire un prete, sennò si incazzerebbe. Perché faccio degli squali di luoghi, degli squali di giochi di parole sul doppio significato della parola interno, però è vero, che l'interno dell'uomo è, sono principalmente il suo interno. E Cronenberg ce lo dice a maniera, per me quella scena è veramente meravigliosa, perché c'è uno scambio tra il corpo dell'uomo e il televisore. Insomma, Cronenberg, Videodrome Cronenberg è un bel esempio. E perché c'entra McLuhan? Allora dice, ma perché c'è messo McLuhan? Perché questo dottor Oblivion ripete in qualche maniera molti dei test, delle cose che dice Oblivion sembrano presi dalle opere di McLuhan, e sono presi, perché non è mica scemo. Cronenberg ha preso McLuhan, lo ha parafrasato un po' e lo ha messo in bocca a Dan Oblivion. Perché il tema fondamentale di Videodrome è il media, come il tema fondamentale di Existence, 10 anni dopo, sarà i media, i videogiochi, in quel caso la televisione nell'altro. Quindi quelli sono effetti, Cronenberg ha semplicemente reso letterale una metafora di McLuhan, e cioè che i mezzi di comunicazione non solo sono il messaggio, ma strutturano diversamente, producono dei diversi comportamenti umani. Cronenberg ha fatto un passo indietro, e invece di dire producono diversi modelli, dicono producono diversi corpi. Il corpo degli esseri che sono entrati in contatto con Videodrome, che è il simbolo di una specie di nuovo medium, di nuovo mezzo di comunicazione, sono irreversibilmente mutati, sono cambiati i corpi, quindi cambiano anche i comportamenti. Allora, ho detto, non c'è solo un cyborg elettromeccanico, un cyborg genetico, ho pensato io nella mia follia, ho pensato, c'è anche un cyborg mediatico. Anche i media producono cyborg, anche i mezzi di comunicazione producono cyborg, anche i mezzi di comunicazione producono alterazioni, forse non nel DNA, ma nel funzionamento sociale dei corpi, nel nostro modo di approcciarci al mondo. L'altro, l'ultimo elemento di cui non vi ho parlato di Videodrom e che ritorna in, ritorna in Existence nel modo più clamoroso, è quello che i media creano mondi. E tanto più creano mondi quanto più sono nuovi media. Già la televisione, ai tempi, per Cronenberg, creava un nuovo mondo. E c'è un'altra scena magistrale in Videodrome, fatto nell'80, quindi 4 anni prima che venisse commercializzato un sistema di realtà virtuale, ma nel film c'è una scena in cui Max Rand si mette addosso un casco integrale che lo chiude tutto. Questo casco in qualche maniera registra i suoi sogni, però sembra inevitabilmente un casco, uno dei caschi che sarebbero apparsi 4 anni dopo, intorno all'85, i primi caschi di realtà virtuale, quindi caschi che ti proiettano sugli occhi, che ti proiettano sui piccoli televisori delle immagini e tu sei immerso in quel mondo e in quelle immagini. Quindi c'era una premonizione della realtà virtuale. Ma varie volte in Videodrome succede quello che in Existence succede costantemente. Existence invece è la storia di una creatrice di videogiochi che si chiama Allegra Geller, che ha creato un videogioco chiamato appunto Existence. Existence è il nome di questo videogioco. E, però c'è una setta di fondamentalisti anti-gioco che cerca di ammazzare Allegra Geller, quindi c'è un attentato durante una presentazione di questo videogioco. Allegra Geller è costretta a scappare con un suo dipendente che è una figlia di guardia del corpo, che non mi ricordo il nome del personaggio, ma l'attore è sempre Jad Law, cioè lo stesso di Gattaca. Sono piccole cose che tornano. Allegra Geller, l'attrice è Jamie Lee, come cazzo si chiama? Jamie Lee? Ah, è quello che ha fatto Venerdì 13. No, Jamie, sì, Jamie, è una. È una che ha fatto già film horror, insomma. Quella magra, lunga. Quella che ha fatto anche il film della Catherine Bigelow in cui fa la poliziotta, accidenti. Mi scappa il titolo. Vabbè. Non invecchiate che la vostra memoria da quello. Va bene, insomma, non mi ricordo che è una bella, una strana, una cosa che mi piace tantissimo. Comunque, insomma, allora scatta con questa qua e tutto il film è una sequenza di scene nelle quali dopo un po' tu non capisci se sei nel mondo reale o nel mondo del videogioco, il quale è un mondo, i videogiochi qua si vivono ovviamente con una specie di immersione corporea fisica, cioè ci si connette il vostro iPod, si usa un biopod, cioè c'è una specie di porta spinale fatta alla radice della spina dorsale, voi ci attaccate con una spina che non è una spina perché è una specie di essere vivente, pulsa come un videogioco, cioè c'è il cordone che pulsa, batte, diventa come una cosa viva, la infilate qua e voi vi traslate come nei romanzi di Dick, vi traslate in un altro universo. Il problema è che dopo la prima traslazione, che è molto chiara, cioè Allegra e il suo compagno si collegano tramite questo biopod al mondo reale, dal secondo passaggio in poi voi in tutto il film non siete mai più sicuri dove cazzo stiamo, se stiamo nel mondo reale, nel mondo in cui Allegra Geller è davvero la creatrice di Existence, o se stiamo in uno di questi mondi giochi in cui Allegra Geller è uno di tanti personaggi di giochi. Questa cosa c'era in embrione già in Videodrome, ma in Existence salta fuori in maniera enorme. Quindi in qualche maniera, più ancora che nella tematica del corpo replicato, nella tematica del corpo invaso, cioè quando l'equilibrio... Ammazza, c'è Mosè, vedete? Questa è la bacchetta di Aronne, di fronte al faraone, la donna agita la pacchetta e la pacchetta di un serpente, nella Bibbia non mi vede nulla, il serpente e il faraone si prende un casino. La tv di oggi, era, le succedevano, chissà cosa c'era da fare. Quindi c'è in qualche maniera una relazione tra il funzionamento biologico del corpo, l'immaginario legato alla biologia, a una sorta di presunzione di naturalità, che poi è dubbiosa, ma che noi continuiamo a presumere che ci sia, non è che anch'io, bastando il furbo, dico che esiste più, in qualche maniera anch'io mi comporto come se ci fosse qualcosa di naturale e qualcosa che non è naturale. Però in questo genere di cose, quindi noi abbiamo una, insomma, Cronenberg, il cinema di Cronenberg è interessante perché dimostra che c'è un legame tra condizioni